Capitolo XIX. Carattere e imprese di Ares. Il tracio Ares ama il fragore della battaglia, e sua sorella Eris suscita sempre nuove guerre spargendo voci malvagie e alimentando le gelosie. Ares, come pure Eris, non favorisce questa o quella città, ma combatte ora a fianco degli uni e ora a fianco degli altri, così come l'umore gli suggerisce, godendo al vedere carneficine di guerrieri e saccheggi di città. Tutti gli altri immortali, da Zeus ed Era in giù, lo odiano, salvo Eris, come abbiamo già detto, e Afrodite, che nutre per lui un'insana passione, e l'avido Ade, sempre pronto ad accogliere le ombre dei validi e valorosi giovani periti in battaglia. Ares, tuttavia, non è sempre stato vittorioso. Atena, assai più abile di lui, l'ha due volte sconfitto in battaglia, e un giorno i giganteschi figli di Aloeo lo sopraffecero e lo rinchiusero in un'urna di bronzo per 13 mesi finché, mezzo morto, egli fu liberato da Ermete. In un'altra occasione Eracle lo costrinse a rifugiarsi impaurito sull'Olimpo. Ares ostenta un grande disprezzo per la legge e non si è mai presentato in tribunale come accusatore. Fu costretto tuttavia a presentarsi come accusato quando gli dei gli attribuirono l'omicidio volontario di Alirrosio, figlio di Posidone. Ares sostenne di essere stato costretto a uccidere Alirrosio, che voleva violentare sua figlia Alcippe, della famiglia di Cecrope. Poiché non vi erano testimoni dell'incidente, salvo Ares stesso e Alcippe, che naturalmente confermò la versione di suo padre, la corte assolse il dio. Quella fu la prima sentenza pronunciata in un processo per omicidio. La collina su cui si svolse il processo fu chiamata Areopago e ancora porta tale nome. La guerra non piaceva agli ateniesi, che combattevano soltanto per difendere la libertà o per altre impellenti ragioni. Essi dunque disprezzavano come barbari i traci, perché facevano della guerra il loro passatempo favorito. Secondo il racconto di Pausania, Alirrosio, prima di venire ucciso, era già riuscito a violentare Alcippe, ma Alirrosio può essere soltanto sinonimo di Posidone e Alcippe sinonimo della dea dalla testa di giumenta. Il mito, insomma, ricalca quello a opera dei fedeli di Posidone e la sconfitta della dea umiliata dai vincitori. Fu tuttavia alterato per ragioni di prestigio patriottico e fuso con una leggenda più antica riferentesi a un processo per omicidio. Areopago significa probabilmente la collina della dea propiziatrice, poiché Areia era un appellativo di Atena e non la collina di Ares.